Il punto di Stefano Folli. Nel caos davvero spettacolare in cui si chiude questa campagna elettorale, il Premier Renzi ha fatto bene a essere chiaro su un punto. Non ci sarà alcuna crisi di governo la prossima settimana, nemmeno se il risultato del PD dovesse essere deludente rispetto a certi traguardi prefissati, ossia una percentuale superiore anche abbastanza al 30%. In effetti, e nonostante quello che pensa Grillo, non c'è alcun motivo istituzionale per cui il voto europeo debba dar luogo come prima conseguenza a una crisi di governo. Peccato però che lo stesso Renzi avesse a lungo accreditato il voto di domenica come una specie di plebiscito sul governo e sul nuovo modo di governare. Un errore, non privo di conseguenze, perché ora il rischio non è la crisi di governo, che non ci sarà, bensì un indebolimento complessivo, quel tipico logoramento di uomini e situazioni che è la costante della politica italiana nei momenti di difficoltà. Ma accadrà solo se il voto sarà davvero deludente per il PD e se i grillini otterranno una percentuale superiore alle attese. I giochi non sono ancora fatti.